Segue ora per documentazione quello che doveva andare in onda come primo racconto e che in fase di montaggio è stato eliminato, è stato tolto dalla trasmissione per motivi, per ragione di tempo. Da due pruni muove il primo racconto. Da due pruni che vegetano nella terra di Peppe, ma hanno il torto di pendere coi rami sul podere confinante. Peppe ogni anno fa in tempo a vedere una prugna di quei pruni che non arriva a mangiarla. La vede, la mangia, ne vede di prugne e ne mangia invece il proprietario del fondo accanto. Questo di questa estate sarà però l'ultimo scialo. I rami della colpa cadranno sotto l'ira di Peppe. Ma qualcuno disapproverà la sua azione. E glielo farà intendere usando proprio gli stessi argomenti che ha usato Peppe. Alla fine, parte di un paese, ha avuto in bere malamente, aveva caduto. Arrivo giù con 100 pure, ma passa via, non posso pigliare già. E mi dava un piacere che passava da vigna, le benedette. E d'intorno, che aveva fatto tutto, e c'era un muro. C'era un cancello, da un cancello e passava. Voglio lì, faceva lì, le benedette, e d'intorno. Come era più un cancello, ma che bello, due prune, che abbiamo per prune da un capo, io. E se buttano un po' prune, si e mette, capo cancello, due cancello, e mette come una via, poi c'è un po' di niente, che si passa, e c'è un capo, e qui ci sono tre o quattro. E c'è un capo, e dico, anche se la via, no, prune, dico, certo, che si può tirare prune. Arrivo già, ma mancava un paio di prune, magari ci partire il capo così. E io chiamo chi di sotto, così mi ha limite. Antonio, chiama, sono Antonio, dico. Ma non è capito che stanno a fare uno del caso, perché che ti ha fatto? E c'è, tu vai con la maledetta per un anno. Mi mangiate sul frisco che la notte avevi chiuso. E dice, tu con me vai. Ma perché la per combattia, dico? E la domanda, oh, tu l'ho con me, io ti chiudo il passo, dice. E mi chiede questo passo, senza il mondo a rete. Ma io, prima mi chiedevo passo a me. E se vedi un botanico, che se veniva a dire, che veniva da un capo, non mi viene in armi, tirava barbotti di coccolini, tirava coccolini in terra, tirava erba di coccolini, capiva con lei. Allora, dopo le parole, io andavo lì, mi tenne mia. Così andiamo tutti da sotto. Se ne preava i tengerà. Se buttano da mano, comunque, Cristo passa, ma ora porco, ti andava con me mia. E io dopo le parole, appena le avevo in capo, non ci vai a stare più. Poi io sono andato, ho detto niente, che avevo un marruggio, se canucci, che ho visto io, un mascherà e già parlo di mascherò. Che le cose dei masci parlano, e qui dopo un altro parlo che sono andato a manare. Non mi fu qui, io ho fatto qui ho fatto canucci. Ho scelto la mano, con giallo, anche qui stavo con il cuoppo, che ti ho fatto sotto il cuoppo, e c'è canucci pure. Ma c'è poi la fine. Mentre tagliavo questo prima di pensare che era segno solo, dico. C'era uno che si chiamava Paolo, una compagnia, che mi diceva, ma aiuto, dico, sai, mi capisco questa cosa, mi dai la cosa, ti ti attaccavi per uno. E trava a cancapa, e io ho questo cattolo, e tagliai per uno, e mi ti mutavo a cancapa. Venivo, venivo, bracca mai, per uscire la corda, bracca mai per uno, perché ti metti in linea, rossa la linea, ma non metti in linea rossa, perché ti balletare una carica, che per uno era in rossa. E la frasca, mi vedo qua bonito, vedo balletare qui qua bonito. Venivo, venivo. A chiappa i fieri e me ne mai dentro. Che aveva una capannetta. Una capannetta c'è con ignazio c'è dentro. E mi sale da un capo. E chiori a me ne. La mattina vieni con quei serri. Non trovo, non trovo il cerchio. Trovo la buona capannetta scassata. Con catenazzo, capisci, tutto sano. Ci rubierà la vita e grappiere. E gli altri ragazzi. Non mi manco, sono fatto. Un cettone. E la lunghetta. Con quella vera uno, certo che hai detto che lo fai, quello che dice, che è per un anno prima, e l'hai potuto. Venivo con lui, mi chiama Uziano, che voleva fare due cose, tutte le cose. E c'è, mentre faceva le cose, ci faceva due cose, due sole, tutta la notte, mi sono detto, c'è, tu qua che andai, come ieri, con tutta la vera uno. Mi ha detto, chiama Uziano, e dopo mi ha detto, sai che c'è da fare? Suo vero, che allora è di sì, perché per uno, mi dico, stanno tutta l'anno, dico. E ci grai, oh, copri a questa pelle. Niente, pigliavo un muto. Lascia la canna, roba, nare, c'è pa' che se ne va. Ci sta lui, o l'oziano ci sta lui, e gli si mangia per uno. Capisci? Ci pigliavo un muto. Ah, Tu hai capito? Certo, la maggiorista ha valore l'hai qui, e qui l'hai. Perché i piedi maniare non li può maniare. Perché si mania i atticcano i piedi. Che sono tutti segnaliati. Non fare vorregare, ma se lo vorregare e di mania, guai, perché se non lo fai così così, se tu lo fai ticket e tacket. Allora in questa fa ticket e tacket, perciò io i piedi atticcano, se non si atticcano i piedi.